140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Casa di Simona, Milano. Voce italiana nel mondo torna con un disco Simona Molinari. Grandi classici con la Roma Sinfonietta di Ennio Morricone in Casa Mia. Sì, è Casa Mia proprio per invitare la gente a casa mia e far scoprire questo mondo per me meraviglioso che è il jazz. Però il jazz a modo mio, quindi ancor più casa mia. E quindi mi sono cimentata in questo disco rivisitando, diciamo, se vogliamo dire, oppure, ma meglio ancora, cantando con la mia voce, con il mio modo anche di intendere la musica o di intendere proprio il jazz, e questi brani meravigliosi che secondo me, diciamo, hanno melodie talmente belle che messe in qualsiasi modo sono intramontabili, ecco, e le canto così proprio per come per passare una serata tra amici a casa mia. Asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside cannot be denied. They said someday you'll find, oh, who love a blind. When your heart's on fire, you must realize, forgets in your eyes. E allo stesso tempo la scelta è facile perché hai tante cose tra cui scegliere, è difficile perché hai tante cose tra cui scegliere. Sì, infatti non è stato semplice, poi per 10 brani in fondo in un repertorio così vasto sono proprio le briciole. E quindi sì, mi sarebbe piaciuto mettere si potrebbero fare almeno altri 10 dischi. Però giustamente ho preso proprio le cose che mi piaceva cantare. Alcune cose le ho prese dal mio scorso concerto che era dedicato tutto a Loving Ella Fitzgerald e altre invece no, però diciamo ho visto che senza farlo apposta più o meno gli anni che sono andata a prendere, quindi dei brani, gli anni di pubblicazione del brano o di riuscita del brano, ecco, sono tra i 30 e i 40 tutti quanti, quindi ho detto è proprio questo, cioè, senza farlo apposta, perché non è che andavo lì a dire tra i 30 e i 40 che cosa c'è che mi piace, no, quello che ho scelto faceva parte tutto tra i 30 e i 44, massimo 50. It's the happiest season of all, with the solid greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for roasting marshmallows, for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas as long, long ago. So che tocca blindare la Roma Sinfonietta per un tour, non sarà facile. Esatto, allora faremo delle date con trio e quartetto d'archi, però abbiamo già in cantiere 3-4 date con la Roma Sinfonietta. Ma la mia idea, il mio desiderio particolare in realtà è quello poi di potermi appoggiare alle sinfoniche di ogni regione, in modo proprio da da conoscerle, in ogni regione, la sinfonica della regione, e poi di poter. Penso sia bello per entrambi, che io conosco loro, e poi in modo da, come dire, fare dei piccoli tour per ogni regione con una realtà proprio della regione. Anche perché per le sinfoniche suonare il jazz è un divertimento unico, Sì, è eh? una cosa forse particolare, ecco, magari, infatti è un po' un azzardo, però io ci proverò fino alla fine e dire voglio fare questa cosa, vediamo. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on thee. Still craving your kiss. I'm longing to linger till I'm there. Just saying. Abbiamo parlato di regioni d'Italia, però tu in questi anni hai girato tanto, hai girato dappertutto, quindi devi prepararti a fare ancora le valigie per uscire. Sì, la valigia è l'unica costante della mia vita, ecco, oltre alla musica. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Simona Molinari. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.